Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Sembra un'agenda in pelle, ma in realtà è un libro, o meglio, infiniti libri. Siamo infatti di fronte al Cybook, un lettore di ebook. Un angolo dedicato ai nuovi prodotti, ai nuovi ebook reader. Si parte dal più piccolino, 5 pollici, passando a un 6 pollici. Come si scarica un ebook? Dopo averlo acquistato, voi ricevete immediatamente una email in cui vi è un link e vi è anche una password. Presentato questo ebook reader tanto atteso in Italia perché c'era solamente sul mercato americano e in Inghilterra fino a poco tempo fa, adesso finalmente sono arrivati gli accordi con le case editrici, ci sarà entro Natale migliaia di titoli nuovi. Mattina vorrei far partecipe chi mi ascolta di un mio dilemma, che è proprio legato a questa introduzione all'ebook. Io tutte le mattine vedo mio figlio da anni uscire per andare a scuola con uno zaino che sembra Atlante con il peso della terra sulle spalle. È un ragazzo che va al liceo, un ragazzo che vive intensamente il suo tempo e la sua generazione, quindi naturalmente fornito di smartphone, di tablet, di tutti gli strumenti individuali di accesso e condivisione del sapere. Però quando va a scuola deve portarsi dietro qualcosa come una tonnellata di libri, vocabolari, dizionari. Io dico, ma non sarebbe forse meglio che anche la scuola adottasse gli stessi contenitori del sapere che tu usi per i tuoi passatempi, i tuoi interessi, il tuo studio e via dicendo? Cioè, non si può, bisogna portare vocabolario rocce di greco perché esiste soltanto quello, bisogna portare tutti i libri, tutte le lezioni ci vengono assegnate e vanno lette su libri e via dicendo. E questa è una parte del mio dilemma che risolverei molto facilmente. Dico, guarda, trasferite tutti i libri nel tablet di mio figlio, quindi se ne va a scuola con il tablet e finisce lì. Però mi ricordo che la parte fondamentale della mia educazione, diseducazione a seconda del punto di vista di chi mi ascolta, è stata fatta in alcuni stati, vissuta a casa dei nonni. Nell'ultimo piano della casa loro c'era una soffitta, una finestra aperta sulla campagna, e c'era la libreria dove tenevano tutti i libri della gioventù dei miei zii. Erano 7 fratelli mio padre, quindi 6 generazioni di zii che da un'età media nati negli anni, fine anni 40 fino ai primi anni 50, quindi c'era tutta la letteratura per ragazzi a cui altrimenti non avrei avuto modo di accedere, e me li lessi tutti. Mi ricordo le cose più strampalate, la scimitarra roventata con cui levavano gli occhi a Michele Strogoff, ma siccome lui lacrimava per vedere la vecchia madre frustrata non l'hanno accecato, tutta la saga di Mary Poppins ma la lessi sui libri prima di vedere il cartone animato, poi Capuana, Fanciulli, tutti questi 8 centeschi strappalacrime, che però mi davano l'idea che era bello leggere. Poi ricordo alcune piccole icone che ogni tanto mi capitano in mano e che ho digitalizzato per ricordarmene. Il libro Cuori che mi regalò mia madre il giorno della prima comunione perché possa essere buono come questi bambini. Pensate che profezia, ahimè, strampalata fece. Il deserto dei Tartari di Buzzati che mi regalò mio nonno, tutta una dedica, un professore universitario. Pensava chissà di quale regalo farmi, ma in realtà fu un autore che mi formò molto. E mi trovo di fronte a un dubbio su quanto la mia tendenza generale, viscerale, profonda, data la mia esperienza personale, ad andare a tuffo verso il nuovo, possa rendermi responsabile di far perdere qualcosa rispetto a tutto quello che c'è di sociale, emotivo, anche se volete romantico, legato all'oggetto libro. Quindi questa mattina vorrei confrontarmi con due professori, due pensatori che la pensano in modo abbastanza antitetico, per cercare di vedere se riesco a trovare una risposta ai miei dilemmi, ai miei dubbi, ai vostri, non so se ci riuscirò. Paolo Ferri, buongiorno. Buongiorno. Paolo Ferri lo conoscete, è il professore di teoria e tecnica dei nuovi media, tecnologie didattiche presso la facoltà scienza e formazione della Bicocca di Milano, dirige un laboratorio, il LISP, il laboratorio informatico di sperimentazione pedagogica, e l'osservatorio nuovi media, New Media BIOS. Insomma, è una persona che ha dedicato la sua attenzione personale e professionale allo studio dell'informatizzazione, della digitalizzazione, dell'osservazione dall'incubatrice dei nativi digitali. Infatti ha fatto un altro libro, La scuola 2.0, verso una didattica aumentata delle tecnologie, Spaggiari Edizioni. Quindi siamo già a un passo successivo, Paolo Ferri, rispetto a quello che ci siamo detti tante volte a questi microfoni, che in fondo bisogna cominciare a convertire i veicoli e i contenitori del sapere nelle periferiche che usano meglio i nostri ragazzi. Oggi è già un passo avanti quello che tu stai preconizzando. Le periferiche cambiano a velocità ormai difficilmente controllabile. Io credo che quello che è chiaro, oggi siamo di fronte a schermi touch, che sono quelli più in voga in questo momento. Io credo che sostanzialmente quello, il supporto vada distinto dal contenuto. Mi ritrovavo molto nel discorso che facevi all'inizio, buona parte delle tue letture sono state le mie letture e francamente sarei contento fossero anche quelle di mio figlio. Quello che trovo difficile... Poi sai, mi domando Paolo, tanto per essere rompiscatole, avrebbero avuto lo stesso effetto, me le sarei sentite così tenacemente avvinte nel mio DNA se non le avessi associate a tutto questo passaggio emotivo, all'idea che me l'hanno firmata, che ci hanno messo le mani i miei zii, che c'erano ancora i disegni di loro quando erano ragazzi, del cuscino in cui stavo sprofondato, la campagna che guardavo. Ecco, il supporto elettronico mi dà tutto questo, che è legato comunque al passaggio di sapere attraverso un libro. Credo generi altre emozioni, però sicuramente genera emozioni. C'è uno studioso americano che diceva che i bambini hanno un naturale innamoramento per la tecnologia e probabilmente questa è l'emozione che provano loro nell'interagire con uno schermo touch. Del resto non credo minimamente che la lettura sia finita e che la narrazione sia finita. L'uomo è un animale che racconta storie e vuole sentirsene raccontare e leggerne. Il supporto sulle quali le leggi è cambiato tante volte nella storia, dalle tavolette di Creta al manoscritto, al libro gutenbergiano, oggi siamo ai tablet, ma da questo punto di vista io credo cambino le emozioni. Però una volta, scusami, una volta il supporto e il testo erano la stessa cosa, oggi il testo è volatile, è software, cioè il supporto comunque è un contenitore neutro, può contenere tutto, è il contrario, certo, di tutto. Però voglio dire, io sull'esperienza di mio figlio che di anni ne ha 10 e ieri era a casa mia perché sono separato e mi dice: ma papà, ho lasciato il libro che leggo da mia mamma e come faccio? Sono andato su Amazon e per 2,90 euro gliel'ho scaricato e per lui quello era il libro che stava leggendo, ovviamente su un tablet mini. E mio figlio legge come più o meno leggono gli altri bambini, ovviamente per la sua età. Non ho mai visto mio figlio appassionarsi alla carta, per lui è come naturale. Quindi tu stai osservando, diciamo, la nascita, la crescita e l'apprendimento di un nativo digitale dalla tua esperienza personale. Sì. Fermo un attimo. Professor Roberto Casati, buongiorno. Buongiorno. Il professor Casati è autore del libro Contro il colonialismo digitale, istruzioni per continuare a leggere, editore La Terza. Ricordo che è il direttore di ricerca del CNRS, Istituto Nicot di Parigi, autore di vari lavori specializzati proprio su questo tema, collabora anche da anni con l'inserto domenicale Il Sole 24 Ore, ha scritto vari libri, però mi interessa a questo momento il suo punto di vista. Se lei ha sentito la mia introduzione, vorrei che anche lei desse una risposta. Mi sono perso qualcosa, mi perderò qualcosa, sarò responsabile della perdita di qualcosa continuando a pensare e immaginare che il futuro dei nativi digitali sarà legato a supporti neutri che contengono un libro che in realtà è semplicemente delle righe di codice, può essere recuperato ovunque, proprio come diceva il professor Ferri. Secondo me c'è una narrazione che va un po' decostruita qui, perché c'è libro e libro, ovvero c'è contenuto e contenuto. Il fatto che tutti i contenuti possano transitare su un tablet oggi non significa che lo debbano fare e che lo facciano bene, quindi c'è una grande differenza, se penso alla descrizione che hai dato all'inizio, tra un dizionario, che fa benissimo a migrare verso il digitale perché ovviamente è il suo modo di uso è anche molto semplificato, e un libro, un libro di testo è un conto, un saggio è ancora un'altra cosa, un romanzo è ancora un'altra cosa. Io non sono un grande amante dell'argomento emotivo, tenderei a essere un po' funzionalista, cioè vedere quali cose effettivamente funzionano, e mi pare che nel caso del libro, il libro di carta funziona molto bene per trasmettere dei contenuti in maniera tale da permettere un'attenzione concentrata. E questo funziona molto bene nel caso del saggio, funziona molto bene nel caso del romanzo, ovvero quando uno prende in mano un libro di carta ha una specie di contratto sull'attenzione che viene stipulato da questo oggetto che dice: guarda, finché tu stai con me io ti do soltanto quello che c'è in questo testo. Di solito questo viene presentato come uno svantaggio dai commercializzatori di tablet. In realtà è un vantaggio dal punto di vista cognitivo, perché permette di fare una lettura approfondita. E sull'apprendimento della lettura è naturalmente importante anche fare un'altra distinzione: apprendere a leggere, d'accordo, si possono usare degli strumenti come i tablet, eccetera, ma apprendere a leggere in maniera approfondita, vale a dire elaborando personalmente il contenuto e non soltanto andando alla ricerca di informazioni parallele continuamente, è un lavoro abbastanza complicato. Quindi il tradizionale supporto cartaceo comunque aiuta, stimola, mantiene viva l'attenzione su un concetto da approfondire. Il supporto tablet, tanto più se poi è un tablet collegato online, permette quella che è la fantastica caratteristica della contemporaneità, un continuo salto verso l'ipertesto, verso cercare nuovamente degli approfondimenti, delle derive parallele. Questo però è a svantaggio, come dice appunto il professor Casati, rispetto alla necessità di approfondire un tema. Melog, Cronache Meridiane. Sì, avevo sentito dire ultimamente col nuovo governo tecnico che c'è stata una nuova, si pensa a un nuovo modo di studiare. Sei d'accordo con questa scelta oppure no? Preferisci il cartaceo? Io sinceramente preferisco il cartaceo. Per quale motivo? Perché il cartaceo ti permette di magari sottolineare, ti permette di ridurre i concetti o magari... Io penso che ancora per parecchio tempo ci batteremo sulla riva di questo fiume per decidere se fare un passo, attraversarlo, decidere che il passato è passato e ci mettiamo decisamente verso una nuova maniera di percepire il passaggio del sapere, l'apprendimento, i supporti della memoria, gli elementi di cui è composta la nostra memoria. Questa mattina mi pongo alcune domande con alcuni esperti di parere antitetico, ma per questo mi piace metterla su un piano dialettico, rispetto al mio dubbio. Io che per sempre mi sono posto come uno strenuo difensore della novità, del nuovo, dell'abbattimento del vecchio, poi quello che mi perdo magari che lascio indietro. Mi ero interrotto con il professor Roberto Casati, che ricordo autore di Contro il colonialismo digitale, istruzioni per continuare a leggere, editore La Terza 2013. Mi ero interrotto un attimo con lei, però mi interessava riprendere il concetto. Innanzitutto, professore, lei che adesso sta negli Stati Uniti, che sono, diciamo, il paese che sembra all'avanguardia rispetto a queste nuove maniere di concepire la conservazione, la trasmissione e l'acquisimento dei dati. Trova che sono argomenti passatisti, punti di vista che ormai sono legati soltanto alla vecchia Europa, quella di pensare che abbia un valore emotivo oltre che funzionale il vecchio libro cartaceo? Io ho due figlie che sono scolarizzate qui in terza e quarta in una scuola pubblica americana, dove il problema è stato affrontato e viene continuamente discusso in maniera che mi sembra giusta, cioè in maniera negoziale, non con delle forme di estremismo per cui bisogna far passare tutto al digitale o bisogna restare completamente sul cartaceo. Io tra l'altro continuo a difendere una posizione intermedia, cioè non sono affatto un nemico del digitale, sono per un uso razionale delle risorse digitali nei momenti e nei luoghi appropriati, ed è quello che succede nella scuola delle mie. Ecco, lei dice non si può massimalizzare, dire... Il libro è tutto, il libro è letteratura, narrativa, poesia, manualistica, informazione scientifica, è tutta una serie di cose, bisogna vedere per ogni settore di ciò che si stampa nei libri qual è l'uso migliore. Questo è il punto, poi bisogna anche guardare quali sono i programmi pedagogici, bisogna anche tenere conto degli elementi di sfondo, perché io, internet non è più quello che era 10 anni fa, che era l'internet dei nostri sogni, internet è diventato una specie di terreno disputato in cui ci sono dei giganti economici che cercano di vendere dei contenuti e che creano degli strumenti. I tablet che abbiamo oggi nelle nostre mani o nelle cartelle dei nostri figli non sono degli strumenti neutri, ci sono degli strumenti che sono pensati per design come dei terminali di catene di distribuzione commerciale, quindi anche qui bisogna immaginare degli usi che cerchino di imbrigliare. Anche se, perché se così non fosse, sarebbe molto semplice usarne uno universale che legga tutti i libri e tutti usano, invece ognuno cerca di usare il suo proprietario per vendere le sue cose. Chiaramente, e questo tra l'altro genera delle modalità di fruizione che sono particolari, perché siccome è importante far passare il messaggio pubblicitario, è importante anche parcellizzare l'attenzione, cioè il fatto che l'attenzione sia divisa o sia una risorsa che viene parecchio maltrattata da questi strumenti non è una cosa che è capitata così per caso, cioè è proprio una necessità funzionale di questi strumenti. E tra l'altro un altro equivoco che è molto importante, che secondo me nelle scuole che vedo qui mi sembra risolto, cioè c'è una differenza fondamentale tra l'accesso all'informazione, che è una cosa triviale, in un certo senso banale, ovviamente questi strumenti danno un accesso all'informazione che noi non potremmo avere in nessun altro modo, e l'accesso alla conoscenza. Accesso alla conoscenza o sapere è una sciocchezza, cioè non esiste un accesso alla conoscenza. La conoscenza è una cosa che si ottiene con una lunga e complessa maturazione. Buona parte del processo scolastico consiste nel cambiare letteralmente i cervelli dei nostri figli, perché sono in grado di acquisire quel numero di informazioni collegate in quel particolare modo grazie all'elaborazione personale e non grazie alla delega alla rete, per poterle poi recuperare ed essere creativi. Quindi l'unico intermediario è la persona deputata con gli attributi, con la delega di essere, diciamo, il guardiano della soglia alla conoscenza. Il libro cartaceo è lo strumento più adatto per questo, che uno può scegliere l'edizione, può scegliere il tipo di libro, comunque rimane forte una mediazione umana. Invece Paolo Ferri, ricordo, autore di La scuola 2.0 verso una didattica aumentata alle tecnologie, edizione Spaggiari. Ecco, te rispetto Rispetto a quanto abbiamo detto finora, Paolo, rimani ancora tenacemente legato al fatto che comunque non si discute, poi la tecnologia vincerà, il cambiamento ci sarà, tutto quello che noi possiamo dire può essere in linea di massima, questo me lo sto dicendo a me stesso, giusto, corretto, inequivocabile, ma in realtà poi la tecnica si mangerà tutto. Ma dunque, il cambiamento c'è già stato. E in realtà l'argomento, sono anche d'accordo con quello che dice Casati relativamente alla trasformazione tra l'informazione e la conoscenza, che richiede una mediazione umana inevitabilmente, il dibattito sulla fine della scuola. Che non sia un ufficio marketing di un grande colosso che distribuisce software e hardware. No, ecco, ovvio, il dibattito sulla fine della scuola è iniziato e finito negli Stati Uniti quando sono arrivati i figli dei creazionisti che pensavano che il mondo fosse cominciato 5.000 anni fa, ma tutto ciò non toglie che nel corso dell'evoluzione storica, appunto, delle modalità di archiviazione del sapere ci siano state tante forme, e questa è la forma nuova, e credo che se portassimo alle estreme conseguenze il ragionamento di Casati, dovremmo dire in maniera sincera che tutti noi che studiamo siamo degli ignoranti, perché a me ormai capita rarissimamente di leggere sulla carta contenuti relativi al mio sapere speciale. Beh, tu però nei primi 50 anni della tua vita questo hai fatto. Ovviamente sì, ma anche durante la mia... Come dicevo io, i libri che mi sono letto nella soffitta dei nonni, il mio patrimonio è quello, io non so come sarei se fossi nato, sì, se fossi nato come... Con gli usi che oggi. In realtà da quando insegno, io in realtà sono di ortografico, per cui ho avuto nel computer un grande sollievo, perché mi permetteva di correggere la quantità di errori di ortografia che facevo, e quindi sono abituato a leggere su schermo da molti anni. Devo dire sinceramente che questo dibattito mi sembra un po' come anch'io ho 5.000 libri in casa e me li tengo lì, però rarissimamente ne apro uno, perché obiettivamente ormai il circuito, per esempio, del mio settore disciplinare transita da riviste che sono solamente online, e non per questo io i PDF che leggo attraverso il tablet o attraverso lo schermo del computer non li compulso con attenzione. Mi sembra molto chiaro, Prof. Ferri, visto che il tempo è finito, che ho sollevato una questione che non è di facile soluzione. È chiaro che le varie equazioni esistenziali che si pongono il problema la filtrano attraverso la loro esperienza. In assoluto andremo avanti verso un periodo in cui l'umanità si aggiusterà in maniera più o meno cosciente, più o meno coerente, rispetto a queste due grandi possibilità: di traghettare completamente, decisamente verso un mondo digitale in cui il vecchio mondo sarà soltanto un'idea riprodotta, o una forma più mediata in cui ci sarà ancora degli accessi possibili all'antica maniera di trasferire il sapere. Grazie ai due ospiti. A lunedì.